nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, buon 8 marzo, ascoltatori e ascoltatrici di Nessuna è Perfetta. È un 8 marzo che ci ricorderemo perché lo vivremo in condizioni, insomma, sicuramente diverse rispetto a quelle degli anni scorsi. Molte mamme, molte nonne lo vivranno appunto occupandosi di figli e di nipoti, perché non vanno a scuola, i compiti comunque bisogna farglieli fare, bisogna riorganizzarsi un po' la vita. È un 8 marzo in cui, tanto per dare l'idea anche del cambiamento che stiamo vivendo, il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha invitato con un discorso in TV molto chiaro nei toni, ha invitato alla calma e a rispettare le istruzioni sanitarie. Le rispetta lui per primo, perché l'evento che tradizionalmente ogni 8 marzo accoglieva centinaia di italiane che hanno fatto cose significative per le comunità in quell'anno, ecco, questo evento non ci sarà, e dunque anche questo fa parte del cambiamento di una giornata che vede, insomma, gli italiani e gli europei e, insomma, tutti i paesi alle prese con l'emergenza coronavirus. Noi cercheremo di raccontare anche come la vita delle donne che lavorano sta cambiando, anche grazie alla decisione che molte aziende hanno preso. Ne segnalo una, Ferrero, che ha stabilito che i genitori con figli piccoli possono lavorare da casa in remoto 3 giorni a settimana, ma tante aziende lo stanno facendo, anche il Comune di Milano, ne parleremo tra poco con l'assessore che ci racconterà come da tempo il Comune di Milano aveva scelto questa strada. Sta cambiando il mondo del lavoro, e se cambiasse radicalmente ne trarrebbe vantaggio in futuro l'occupazione femminile. Questo è poco ma sicuro. Di quella che dovrebbe diventare un'opportunità in un momento di crisi, vale a dire della possibilità che lo smart working non sia soltanto una fase temporanea nella nostra vita, ma che diventi un modo appunto di modernizzare l'Italia e di aiutare le donne che lavorano, perché il nostro punto di vista qui a Nessuna è Perfetta è come conciliare sempre la vita personale, la famiglia e il lavoro, non costringere le donne a scegliere l'uno o l'altro. Bene, di tutto questo vorrei parlare col professor Mariano Corso. Buona domenica, professore, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working al Politecnico di Milano. Buongiorno, buona domenica. Professore, come potrebbe cambiare la vita di questo paese e anche la vita delle tante donne che lavorano se lo smart working non fosse soltanto una dimensione lasciata appunto alle situazioni private? Le aziende private sono già più avanti su questo, ma diventasse anche un metodo di lavoro per il pubblico. Potrebbe migliorare moltissimo, ma soprattutto potrebbero migliorare anche i servizi, potrebbero migliorare le nostre città, la società potrebbe diventare nel suo insieme più sostenibile. E provo a dare su questo un paio di argomentazioni. Lo smart working in realtà nell'essenza non è il lavoro da remoto, non è il telelavoro, ma è lavoro per obiettivi, quindi è fondato sulla fiducia, sulla responsabilizzazione, sul dare flessibilità e autonomia ai lavoratori. Allora, ai lavoratori tutti, è una cosa importante. Io mi arrabbio tantissimo quando si dice che lo smart working è qualcosa che si applica alle donne. Non è vero, e soprattutto non è che sia soltanto per le donne, anzi, perché il vantaggio sia pieno, in particolare per le donne di talento, deve essere un modello organizzativo, cioè deve essere legato soprattutto alla meritocrazia, alla possibilità di essere autonomi, e questo fa emergere le persone di talento. Ci sono tante donne di talento nella nostra pubblica amministrazione che sono relegate da sistemi che sono burocraticamente rigidi a delle mansioni, a del non potersi prendere e mantenere determinate responsabilità. Ecco, lo smart working ha un effetto straordinario. Lo smart working libera il talento di tantissime persone che, avendo l'autonomia di costruire, di plasmare quelle che sono la propria giornata, le proprie esigenze, possono esprimere il meglio di sé. Quindi, professore, si dice, siccome noi in Italia siamo come dire, tendenzialmente portati al non si può fare, no? Allora si dice, ma prima che il lavoro a progetto, appunto il lavoro da casa, le tecnologie diventino un'abitudine, passeranno decenni. Pensate agli uffici del sud, e uno immagina subito, no? Corre subito a quella meravigliosa descrizione dell'impiegato pubblico che ne ha fatto Checco Zalone in uno dei suoi più celebrati film. Il posto fisso. Ma professore, è davvero così? Perché invece altri dicono ci vorrebbero un paio d'anni per applicare anche nella pubblica amministrazione lo smart working. Allora, la prospettiva che le davo, cioè quella legata al lavoro per obiettivi, alla meritocrazia, in realtà è proprio al centro della riforma della pubblica amministrazione, già della riforma Madia con l'articolo 14. Quindi la pubblica amministrazione italiana ha il merito di aver riconosciuto nello smart working proprio una leva per introdurre meritocrazia. L'ultimo, siamo in ritardo, ma l'ultimo anno, parlo prima dell'emergenza sanitaria, l'ultimo anno in realtà ha visto un grandissimo fenomeno di crescita del numero degli smart worker, particolarmente concentrato nella pubblica amministrazione. Delle cifre? Abbiamo certamente delle cifre che sono legate soprattutto alle grandi pubbliche amministrazioni. Le grandi pubbliche amministrazioni hanno raddoppiato nell'ultimo anno il numero di aziende che propongono lo smart working. Vedo prima un dato complessivo: nella pubblica amministrazione complessivamente sono circa quelle che hanno progetti strutturati oggi sono il 16% delle pubbliche amministrazioni contro l'8% del 2018. Lei pensi che in un solo anno, sono poche per quello che mi riguarda, ma sono raddoppiate in un solo anno. Quindi si può fare. Ecco. Si può fare, ma non bisogna avere la malattia della pubblica amministrazione italiana è quella di pensare che le riforme, l'innovazione possa essere fatta, come si dice, a costo zero per le finanze pubbliche. Ecco, un cambiamento organizzativo come quello dell'introduzione dello smart working richiede degli investimenti tecnologici, ma ancora di più richiede degli investimenti organizzativi in formazione, in competenze digitali, in managerialità. E non è un caso che, pur essendo la pubblica amministrazione in grande in ritardo rispetto a quelli che erano gli obiettivi della riforma Madia, in realtà quando nell'ultimo anno ci sono stati dei progetti di accompagnamento che hanno dato risorse, un minimo di risorse, di formazione, di accompagnamento alle pubbliche amministrazioni, il numero di applicazioni, il numero di iniziative, il numero di persone che hanno avuto accesso a questa opportunità è salito vertiginosamente. Grazie al professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Buona domenica, professore. Grazie a lei. Nessuna è perfetta. Eccoci, è il momento della nostra Sunday Girl. È una Sunday Girl che conosco, si può dire, da quando era bambina. Ma sì, da quando era una ragazzina di quelle di cui tutti erano invaghiti, perché lei era la popolarissima, una delle popolarissime piccole star di una trasmissione allora molto popolare. E poi, vabbè, adesso non vi dico di più perché la dovete scoprire subito voi, la nostra Sunday Girl di questa settimana. Benvenuta, bentornata, Nessuna è perfetta, Ambra Angiolini. Come stai, Ambra? Ma questo stacchetto è stupendo. In tempi d'oro l'avrei portato a casa in un modo incredibile. Dunque, stavo raccontando ai nostri ascoltatori della prima intervista che ti ho fatto, e all'epoca eri appunto a Non è la Rai con Gianni Boncompagni. Poi ci siamo riviste in tante occasioni quando eri spesso nostra amatissima cover girl del settimanale A, e ci sono state tante Ambre, e appunto il percorso del ricominciare ti è più che noto, eh? Oh mio Dio, credo che sia proprio dove ho preso la residenza in questi anni. In via del ricominciare vivo, quindi sono abbastanza serena, perché quando poi, come dire, acquisti consapevolezza, non la vivi più come un difetto, ma lo vivi come uno dei tuoi pezzi. Ma è un punto di forza, saper ricominciare è bellissimo. Praticamente ogni domenica mi piace tornare su questo tema, perché è anche una delle forme di, in cui pescare risorse. Le donne sono molto brave in questo. E mi pare che nel ricominciare ci sia anche la scelta, no, di fare teatro, cosa che tu stai, diciamo, facendo con uno spettacolo impegnativo e bello, portato in scena a gennaio e a febbraio, Il Nodo, e era previsto che fosse in scena anche in questi giorni all'Ambra Iovinelli a Roma, ma come altre manifestazioni teatrali è stata sospesa e rimandata a causa del Covid-19. Tu, insieme a Ludovica Modugno, in uno spettacolo diretto da Serena Sinigaglia, porti in scena il complesso rapporto tra genitori, figli, scuola e il tema del bullismo. Com'è che hai deciso di portare in scena questo problema, questa tematica? Ma in realtà, perché l'autrice Joan Adams è una drammaturga contemporanea molto, diciamo, ambita ormai all'estero, e portare un testo contemporaneo in teatro è un rischio a livello, diciamo, produttivo, perché la gente è più diffidente, no, su testi che non conosce. Però mi sembra invece una bella rivoluzione necessaria in questo momento, dove dobbiamo raccontare anche la vita di oggi, cioè le nostre problematiche, quelle di adesso, in teatri importanti, non solo in quelli off, che sono meravigliosi, ma che fanno fatica poi a far emergere le notizie, no? Cioè, è chiaro che se fai un giro minore devi purtroppo sgomitare di più per riuscire a portare, non so, ragazzi a teatro. Se si riuscisse ad arrivare anche nei teatri quelli più importanti, con testi così nuovi, sarebbe già una bella scommessa. E poi questo è un testo che parla a tanti genitori, a tanti insegnanti. Ci vuoi raccontare cos'è questo dialogo tra una madre, che sei tu, e l'insegnante del figlio, che è Ludovica Modugno? Ma in realtà è un dibattito tra le due abbastanza acceso, dove l'unica, a un certo punto, forma di vittoria è voler avere ragione l'una sull'altra, dimenticandosi tutte e due a un certo punto completamente del motivo per il quale invece quel confronto, se fosse stato portato a casa come tale, sarebbe stato importante. Cioè il bambino, cioè il ragazzino, ha la possibilità di essere due entità così importanti, scuola e famiglia, che trovano un terzo modo di comunicare e generano quell'ambiente, diciamo, abbastanza protetto dove poter far crescere dei ragazzi. Perché l'elemento scatenante è che il figlio di Ambra, cioè il tuo figlio in teatro, e torna a casa pieno di lividi e tu vuoi capire che cosa gli è successo, se è stato vittima di bullismo o se è stato lui invece un molestatore di altri ragazzi. Sì, diciamo che poi nasce da un gesto tragico, perché Gideon nel testo si suicida, mio figlio, per cui la madre va a capire cosa è successo con questo lutto nel cuore che all'inizio non capiamo tanto in maniera chiara. Vediamo una donna molto, diciamo, nervosa, convinta di dover affrontare questo colloquio che c'era prima e doveva essere fatto comunque anche dopo quello che evidentemente le è successo di tragico, per cui diciamo che le due donne si incastrano in una serie di confronti, di sensi di colpa, di accuse ferocissime, non tanto per dare poi la possibilità a tutti di mettere a posto questa storia nel modo migliore, ma per avere ragione. Quindi diventa un argomento trattato in modo violento e molto acceso, e purtroppo tristemente fine a se stesso. E questa è una cosa che mi incuriosiva parecchio, perché quando ho letto il testo mi ha fatto fare mille domande su come è il mio rapporto con i professori, su come noi siamo diffidenti nei confronti di quello che ci viene detto riguardo ai nostri figli a scuola, di quanto anche, diciamo, il corpo insegnante spesso diffida del genitore, perché pensano di essere sempre messo sotto accusa, e spesso esatto, ingiustamente. E come madre, no? Tu hai due figli adolescenti, ti è capitato di porti il problema del bullismo perché magari tuo figlio è stato vittima di atti di bullismo a scuola, o viceversa, è stato lui il protagonista? Ma mi è capitato di avere a che fare con una storia del genere, dove mio figlio è entrato a far parte, diciamo, di questa scomoda questione, perché si è preso la briga di ritirare fuori da un cestino il cappottino di un ragazzino bullizzato che era stato invece gettato nella spazzatura, e per questo ha ricevuto, diciamo, un brutto gesto a un orecchio, era piccolino. Quindi insomma mi ricordo che però in quell'occasione, insomma, la situazione l'abbiamo affrontata in maniera più che consona, perché siamo andati tutti a scuola a cercare di capire, senza portare avanti e indietro mio figlio, c'ha ragione, il tuo c'ha torto, cioè cercando di comprendere anche le storie che ci sono dietro ogni certo ragazzino, e quello che in realtà possono veramente solo fare gli insegnanti, soprattutto se ci viviamo tutti come isole a parte, no? Noi invece non creiamo un villaggio comune dove cercare, insomma, di dall'alto di gestire un po' meglio queste situazioni, che comunque capitano e ci sono, perché fanno parte anche della ribellione di quando sei giovane, di quando sei piccolo, di quando vuoi, o di quando hai tanta insicurezza dentro e pensi che esprimerla aggredendo un compagno che ti sembra più fragile sia il modo migliore per risolvere. Sono temi che si sono, diciamo, trovati spesso nella vita nostra e anche nella nostra vita di genitori. Tu sei stata anche nelle scuole, vero Ambra, a parlare con i ragazzi? Che cosa ne hai ricavato? Ma nelle scuole ho visto una voglia disperata di essere ascoltati, cioè all'inizio c'era quella freddezza e quella presunzione, no, di quell'età in cui tu entri in una classe e loro dicono ecco qua un'altra che ce fa le prediche, quando poi si accorgono che questo rischio, almeno con me, non è assolutamente fondato, e che anzi io vado lì per ascoltare loro, per sapere da loro quello che succede nel loro villaggio, perché è quello che poi più ci interessa sapere, allora si aprono in modo commovente. Cioè io davvero ho assistito a uno spettacolo forse più interessante di quello che porto io sul palco, e quindi per questo motivo ho deciso che questo spettacolo sarebbe stato fortemente legato alle scuole. Il mio è stato ad una mano, quindi insomma la tournée è fatta di matinée nelle scuole e poi di serali per le persone, insomma, Tanti genitori penso siano interessati. Senti, a proposito di serate, sono settimane in cui il mondo dello spettacolo, i teatri, i musei devono fare i conti con la prevenzione, le precauzioni per il Covid-19. Tu pensi che sia stato giusto suggerire appunto ai teatri di chiudere? Che ne pensi? Forse, nel senso che io penso che a un certo punto dovremmo ricominciare a fidarci innanzitutto l'uno dell'altro e poi anche di quello che ci viene detto. Questo è un paese che ha perso un po' di fiducia, no? L'ha persa forse anche per motivi molto validi, perché non so, in questo periodo c'è stato chi si è approfittato anche del momento, diciamo, di crisi per fare campagna elettorale. Ci sono delle situazioni in cui ovviamente il cittadino si sente un po' preso in giro o diffida talmente tanto, proprio perché non ne capisce il motivo, no, di certe regole, se sono davvero regole giuste per noi, se sono legate a questioni, a trame. Ne ho sentite di tutti i colori in questo periodo, addirittura veramente questioni incredibili a livello internazionale. Sì, il fatto che possa essere una cospirazione contro la Cina o contro l'America. Hai ragione, fidarci forse, sì, capito? Infatti. In questo momento purtroppo invece dobbiamo guardarci in faccia e cercare di trovare un coraggio comune, uno per non bloccare economicamente questo paese perché non se lo merita, ne ha già superate tante, troppe, e due perché noi non ce lo meritiamo e quindi dobbiamo essere davvero più consapevoli, non andare nel panico, cercare però di essere coscienti che questo problema esiste e dobbiamo superarlo. Non c'è niente di male a stare a un metro di distanza dalla persona con cui parli, se questo mi pare una precauzione che non ci costi niente e può evitare appunto il contagio che, come è stato detto dagli esperti, si può propagare facilmente con le goccioline di saliva che possono schizzare dopo uno starnuto. Ma tu che fai quando i fan ti stringono la mano, la ritiri come ha fatto un ministro tedesco mentre Angela Merkel gliela stava porgendo? Beh, stupendo, sì, l'ho sentito, ma ci sono vicende di incredibili. Diciamo che non vedo che c'è molto rispetto di questa cosa, ecco. Nessuno chiede baci in questo momento. Se non vengono chiesti non ne do, perché mi faccio il problema di essere anche io pericolosa per me, e poi io sono con grandi sorrisi. Ecco, i sorrisi bisogna rivalutarli in sto periodo, quindi io ne do tanti, ne concedo tantissimi, ne vengono dati altrettanti. In questo momento accontentiamoci di quello che possiamo. E tra l'altro un sorriso di solito produce un altro sorriso e la catena di sorrisi ti può aiutare durante la giornata. Sono d'accordo con te, anche io ne faccio un uso abbondante e mi trovo bene. Grazie Ambra Angiolini. Noi ti aspettiamo naturalmente di nuovo a teatro con Il Nodo. Nessuna è perfetta. Bentornata, buona domenica, Roberta Cocco, assessore alla trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano, città della quale si parla praticamente ogni ora ormai per i noti problemi legati alla diffusione del coronavirus, città che ha visto nei giorni scorsi il suo sindaco Beppe Sala fare il punto sulla prima parte dell'emergenza e annunciare due misure concrete: l'introduzione dello smart working per 500 dipendenti del comune e la consegna di medicinali a domicilio. Dunque, buongiorno assessore Cocca, buona domenica. Buongiorno. Assessore Cocco, in che modo una città come Milano, che è dello smart working, aveva fatto da tempo una sua campagna, sta affrontando appunto l'applicazione del lavoro a distanza in una situazione di emergenza? Allora, noi sin dall'inizio del mandato abbiamo operato con tutti gli assessorati per rinsaldare e rinnovare le infrastrutture tecnologiche, quelle che ci hanno permesso di sviluppare molti servizi ai cittadini e ci hanno anche permesso di rendere più solida la piattaforma necessaria a garantire il lavoro agile. In realtà è dal 2014 che il Comune di Milano lavora per promuovere modalità diverse di possibilità di svolgere la propria funzione, ovviamente per quelle aree dove è possibile, anche in remoto. Certamente questa emergenza ci ha fatto rendere ancora più necessario il consolidamento dell'infrastruttura e la possibilità di offrire a sempre più dipendenti del Comune di Milano la possibilità di lavoro da remoto. Quali sono i dipendenti del Comune di Milano che lavorano da remoto in questo momento, Assessore Cocco? Allora, sono per esempio le persone che fanno lavori di back office. Io sono anche assessore ai servizi civici. È chiaro che, avendo deciso con il sindaco Sala di mantenere aperti gli sportelli delle anagrafi, le persone, come noi chiamiamo, di front office non possono cambiare modalità di lavoro. Però c'è tutto un lavoro, ad esempio, che l'anagrafe fa in back office, e quindi lavoro, diciamo, di ufficio, ma di ufficio di gestione delle pratiche, che quello collegandosi ai siti preposti e alle strutture preposte può essere fatto tranquillamente da remoto. Possiamo fare un esempio? Ad esempio, la richiesta di reperimento di un documento storico che ci viene fatto attraverso ormai la modalità online, oppure il trasferimento di residenza, che ormai noi da alcuni mesi abbiamo permesso ai cittadini di fare totalmente digitale. Quando il comune riceve la richiesta digitale con tutti i documenti allegati, è necessario un lavoro in back office per verificare che i documenti siano corretti, aggiungere ad esempio delle annotazioni o delle ulteriori richieste di certificazione, compilare la pratica e inviarla alla persona che l'ha richiesta. Tutto questo non necessita di contatto. E quindi si può fare anche da casa con un computer. Assessore, mi è capitato di parlare con dei manager di aziende e dicono sì, benissimo, anche in tante aziende lombarde è stata applicata la misura del lavoro da remoto, però sotto percepisco la preoccupazione di dire: ma io come faccio a misurare il giorno per giorno dell'attività di questi dipendenti? C'è sempre un pochino di diffidenza, no? Rispetto al fatto di dire vabbè, però poi magari qualcuno se ne approfitta. Voi come fate? Allora, questo è un punto importante, perché in realtà è più una preoccupazione del manager, della persona che coordina il lavoro, che non del dipendente. Noi dobbiamo uscire, ma veramente in senso generale, sia nelle organizzazioni pubbliche che nelle organizzazioni private, da un lavoro che viene controllato per il numero di ore presenti in un ufficio, ad un lavoro che viene valutato per i risultati che porta. Quindi se io so che una singola persona lavora, opera su un certo numero di pratiche, non importa dove le si stia gestendo o con quali passaggi, io spero sempre meno cartacei, lo faccia. L'importante è che alla fine del suo periodo di lavoro abbia portato a termine tutta una serie di processi e di pratiche. Quindi dobbiamo un po' sollevarci dall'idea di avere un dipendente che noi, tra virgolette, vediamo lavorare, e quindi in qualche modo magari il manager si sente di controllarlo, invece ad un collaboratore che con i propri tempi e con una strumentazione tecnologica adatta possa svolgere la sua funzione anche da remoto. E questo è molto importante, anche, sai che io sono molto legata alle tematiche femminili, è molto importante anche per esempio per le donne, per le persone che hanno necessità a volte di passare più tempo in un sito che sia diverso dal proprio lavoro e che possono tranquillamente svolgere la loro funzione. Immaginiamo adesso quante mamme o quanti papà devono stare a casa perché le scuole sono chiuse, quindi i ragazzi in questo momento vanno seguiti, certo, vanno seguiti, vanno comunque, diciamo, aiutati nel non perdere l'abitudine allo studio, e ci vuole un genitore che li stia seguendo, e grazie al lavoro da remoto tutto questo è possibile. Roberta Cocco, dopo tanti anni in Microsoft, 25, no, di brillante carriera in Microsoft, il cambio di vita entrando nella squadra del sindaco di Milano per lavorare proprio alla trasformazione in senso digitale della città. Il bilancio di questi anni in cui si è passati dal privato al pubblico? Allora, sicuramente un grande salto, perché non solo privato, ma privato in una grande multinazionale e anche con esperienze professionali internazionali. Il pubblico, devo dire, è comunque affascinante, perché tutto quello che si fa deve essere fatto e viene fatto a beneficio dei cittadini. Quindi, per esempio, aver creato insieme a tutto lo staff del comune il fascicolo del cittadino, che permette a tutte le persone di Milano di poter accedere in remoto a tutti i propri certificati e documenti, è una soddisfazione straordinaria. E anche conoscere una pubblica amministrazione che da fuori è un po', purtroppo, posizionata in modo sbagliato, invece incontrare tante persone con eccellenti competenze e con tantissima voglia di fare. Si scopre un mondo nuovo. Senta, Roberta, in conclusione, oggi è l'8 marzo, è una celebrazione che in questo momento viene vissuta ovviamente con un po' più di distrazione rispetto a quanto accadeva negli anni scorsi, perché siamo tutti concentrati sul come affrontare e sperabilmente chiudere il prima possibile l'emergenza coronavirus. Che cos'è per lei l'8 marzo? Allora, l'8 marzo è un simbolo, come dicono tutti, come diciamo tutte, l'8 marzo deve essere tutti i giorni. Io che da tanti anni mi occupo e mi impegno sulla parità di genere, spero davvero che anche grazie alla tecnologia, che è un po' la mia comfort zone, no? Il mio ambiente professionale più vicino, davvero non ci siano più 8 marzi e non ci siano più giovani ragazze che debbano scegliere tra il lavoro e una soddisfazione personale, quindi non più scegliere tra lavoro e famiglia o lavoro e interessi personali, ma che anche grazie alla tecnologia davvero nei prossimi anni le donne finalmente raggiungano la parità, perché anche la parità di scelta di tenersi tutto insieme senza però appunto essere condannate ai ritmi frenetici. Lei, Roberta, lo sa che qui a Nessuno è Perfetta il multitasking non è molto apprezzato, perché lo consideriamo un modo diverso di fregarci, ecco. Esattamente. Anche la passione tante volte un po' ci frega, no? Siamo talmente appassionate nelle cose che poi non smettiamo mai, no? Davvero, auguriamoci per le nostre figlie, insomma, per le ragazze del futuro, che la strada sia un pochino più semplice di quella che abbiamo dovuto percorrere noi. Una domanda inevitabile, assessore, che previsioni fate? Ovviamente tante iniziative fieristiche importanti sono state rinviate. Allora, noi davvero navighiamo a vista, perché ogni giorno abbiamo elementi nuovi, abbiamo dati molto positivi e abbiamo anche qualche scoperta di qualche caso che non ci aspettavamo. Io ho dovuto qualche giorno fa purtroppo posticipare la Milano Digital Week, che sarà a questo punto a fine maggio. Davvero navighiamo a vista, stiamo cercando di tenere il più possibile Milano aperta, e quindi cercare di mantenere laddove possiamo, e di nuovo capire come anche in questo caso la tecnologia possa venirci incontro per realizzare ad esempio eventi virtuali o momenti di confronto attraverso il digitale, e quindi cercare di ridurre al minimo, per quanto possibile, l'impatto negativo che questa purtroppo emergenza sta generando. Grazie a Roberta Cocco, assessore grazie alla trasformazione digitale e ai servizi civici del Comune di Milano. Buon 8 marzo. Grazie, grazie a voi. Nessuna è perfetta. Eccoci, dunque, come sapete stiamo parlando di smart working, perché da un'emergenza, quella che stiamo vivendo, potrebbe derivare una grande opportunità per il nostro paese. Vi ricordo 828 12 12 per i vostri messaggi vocali. Abbiamo parlato col professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Abbiamo affrontato con lui la dimensione pubblica, ma vogliamo vedere anche che cosa sta succedendo, sta già succedendo in un'azienda privata. Lo facciamo con Ilaria Dallariva, direttore delle risorse umane di Vodafone. Buona domenica, Ilaria. Buona domenica. Allora, in Vodafone avete applicato lo smart working per chi e per quali zone della vostra azienda? Vodafone ha una grande tradizione di smart working, che devo dire nasce prima del coronavirus, perché è stata per una delle prime aziende in Italia nel 2014 a partire con smart working in maniera un pochino più ristretta, due giorni alla settimana, fino ad arrivare nell'ultimo anno a fare un giorno a settimana a tutti i nostri dipendenti, a tal punto che poi venerdì, quando sono iniziati i primi casi di coronavirus, cioè noi il lunedì 24 eravamo già pronti per avere più dell'80% di dipendenti smart working. Una delle obiezioni che si fa a chi sostiene la necessità di modernizzare l'Italia attraverso lo smart working è: beh sì, ma poi come fai a valutare le performance dei dipendenti? Magari uno sta a casa e non fa niente. Voi come fate in Vodafone? Io credo che sia un percorso culturale che deve iniziare un po' prima dello smart working, no? Che ha a che fare con che modelli di leadership tu hai in azienda, quanto hai abituato le tue persone a lavorare per obiettivi, ad essere ingaggiate. Io quello che vedo, ti dico anche per esperienza personale, perché confesso che io non avevo mai fatto smart working in maniera così continuativa, e questo sarà uno dei grandi cambi che secondo me per la prima volta tanti amministratori delegati, tanti manager hanno provato anche loro a fare lo smart working, e questo renderà, come dire, ancora più fruibile e raccomandabile nelle aziende, perché si sperimenta che effettivamente si lavora e si lavora di più. Quindi questo è un altro elemento che cambierà, cioè che anche le prime vertici delle aziende hanno fatto smart working e secondo me hanno toccato con mano che si può fare e che funziona, che la gente lavora e che funziona, e che funziona. È chiaro che bisogna lavorare molto su temi di fiducia, di trasparenza, di valorizzazione dei risultati e non di presenza fisica, di orari di lavoro. Io mi aspetto che ci sia anche una grande rivoluzione sugli orari di lavoro, sui contratti, cioè che sia, come dire, ci sia da oggi a domani un grande cambio. Un po' una linea di demarcazione. E quello è quello che ci auguriamo, cioè se sprechiamo questa occasione e non riflettiamo sulle cose che ci ha costretto a guardare in faccia, davvero buttiamo via un momento importante per voltare pagina. Grazie a Ilaria Dallariva, direttore delle risorse umane di Vodafone. Buona domenica. E questi sono giorni in cui tutti fanno i conti con le scuole chiuse, tutti quelli che hanno figli che vanno a scuola, dall'asilo all'università, ovviamente con problematiche diverse. E capita che anche le mamme molto impegnate, quelle che per motivi di lavoro i compiti con i figli hanno avuto poco tempo per farli, adesso si ritrovino per esempio anche ad avere un altro ruolo, quello di maestra di terza elementare o maestra della prima media. Voglio capire come se la sta cavando l'amministratore delegato di Invimit SGR, Giovanna Della Posta. Ciao Maria, e grazie per questa attenzione a un tema così importante, un tema molto che sta diventando sempre più parte del nostro quotidiano. Quindi sì, anche io, mamma di due bambini, Martina Federico, ho 9 anni. 9 anni la piccola e 12 anni il grande, quindi abbiamo una prima media e una terza elementare. E come dicevi, sempre presa dal lavoro, poi non è che effettivamente durante l'attività normale riesca a seguirli sui compiti o cose di questo tipo, però adesso sono a casa, io vivo a Milano, quindi sono ormai a casa da 2 settimane. Con lo smart working? Con lo smart working. Com'è cambiata la tua vita? Prima di tutto dal punto di vista... diciamo familiare, tu appunto prima i compiti con i tuoi figli non li facevi, adesso li fai, come funziona? Li fanno volentieri con te? No, penso che ringrazieranno quando torneranno a scuola e rivedranno le loro insegnanti, perché la mamma è severissima, quindi gli assegno tanti compiti e chiaramente sono anche una mamma esigente, per cui penso che ringrazieranno, e questa poi secondo me è la parte divertente, un po' pittoresca, cioè i genitori, io vedo anche la chat delle mamme, si stanno improvvisando maestri, insegnanti di tutte le discipline, quindi è una cosa, vedo le domande che fanno le mamme in chat, che cercano qualche forma di aiuto, perché ovviamente devi insegnargli le cose, devi guardare i compiti, devi correggere, e quindi è chiaro che anche questo ci mette un po' alla prova. Giovanna Dalla Posta, proprio perché tu ti occupi di immobili, proviamo a immaginare come potrebbe essere dal punto di vista, diciamo, delle case, no? Se lo smart working si affermasse, cosa che io mi auguro accada, perché ne ricaveremmo vantaggi sotto il profilo dell'ambiente, meno emissioni di CO2, meno traffico, probabilmente un paese più moderno, più donne al lavoro, perché potrebbero conciliare meglio famiglia e professione. Ma le case dovrebbero avere più stanze, perché magari anche il padre, il marito fa smart working, se le aziende prendono questa, diciamo, magari prendessero questa abitudine. E quindi come cambierebbe la domanda immobiliare? Sicuramente sì, più spazio. Noi in casa, la nostra esperienza, noi avevamo uno studio condiviso io e mio marito, che però è in smart working anche lui, una multinazionale, in smart working H24, che lo sento sempre in call, quindi ha usucapito la mia scrivania praticamente, quindi io mi sono dovuta cercare un'altra stanza, ma era la stanza che era quella dei giochi, quindi i miei mi hanno detto va bene, ti sei presa la stanza dei giochi, no? Mi hanno detto i miei figli. Allora è chiaro che io ho anche una casa magari un po' più grande, però tipicamente secondo me ci sarà un 15-20% di spazi che a un certo punto i genitori penseranno di dover dedicare con uno studio anche all'attività di smart working. Di pari passo, quindi residenziale forse un tantino più grande rispetto alle dimensioni a cui ci siamo via via abituati a pensare, però quello che si sta sentendo già sul mercato, una riduzione invece degli spazi per gli uffici, perché se le imprese capiscono che effettivamente c'è questa possibilità, considera che tipicamente ci sono 12 metri quadrati a postazione, che sono, diciamo, la misura che normalmente tutte le aziende hanno in testa, oggi si parla di 5-6 metri quadrati, ma non perché le scrivanie sono una attaccata all'altra, ma perché la stessa scrivania ruota n volte. Quindi non è, certo, più necessario. Certo, perché se le persone vanno in ufficio a rotazione 2 giorni a settimana e gli altri 3 lavorano da casa, certo, è chiaro che servono uffici più piccoli, con notevole, sì, risparmio economico per le aziende tutte, e, certo, e forse una qualità appunto dell'ambiente e anche della vita migliore. Giovanna Della Posta, i tuoi collaboratori sono contenti di lavorare da remoto, benché appunto in una condizione di emergenza sanitaria, per questo che stiamo scoprendo questa dimensione? Sì, sì, sono contenti, e devo dire come mamma, perché poi essere amministratore delegato ti dà la possibilità anche di mettere giù le idee, le cose che hai, che pensi, e realizzarle, no? E quindi come mamma e come anche persona che ha una famiglia e ho un marito che lavora tanto, lo smart working viene dato a tutti. Quindi domani per esempio facciamo le prove e siamo tutti a casa per dimostrare che funziona, ma tutti coloro che me l'hanno chiesto in questo periodo chiaramente l'hanno ottenuto. Smart, assolutamente, sì, sì. Uomini e donne, senza nessun tipo di, anzi lo hanno chiesto entrambi, devo dire, entrambi i generi, senza differenza. Grazie a Giovanna Dalla Posta, amministratore delegato di Invimit SGR, buona domenica e, grazie, buona, e buon lavoro con i tuoi figli oltre che in azienda. Grazie, ciao, buona domenica a tutti. Allora, grazie a tutti per averci seguito. Noi ci sentiamo, se vorrete, domani, lunedì, dalle 8:20 a 24 mattino, sempre su Radio 24 con Simone Spezia. E se no, ci ritroviamo domenica prossima. Vi ricordo che ascolteremo i vostri commenti, i vostri messaggi vocali su questa puntata. Il numero è quello che conoscete, 828 12 12. Buona domenica a tutti, ciao!